Romantico, quel bacio imprevisto ha dato tasso alcolico, le luci lontane di feste affollate, l'odore del mare di agosto. Non scorderò l'ebbrezza di quel volo magnifico, le vertigini annesse, le audaci promesse, ti porterò in cima al mondo. Io in preda a un'estasi inconsueta, baby, baby, tell me why. Lui col sorriso mollava la presa. Ciao amore, ciao. Un'altra estate alle porte, non so se ridere. Suoi colori tenui e mobili, e poi l'inverno discreto, la neve, il silenzio, le allegre